Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Secondo me l'Italia è ancora un paese sicuramente attrattivo per i talenti. Poi io non sono, diciamo, un estremista che dice, cioè, devono tutti tornare in Italia, perché adesso io gestisco un'impresa e vivo e lavoro un po' a Milano, un po' a Londra, un po' a New York, quindi io passo 2/3 del mio tempo in Italia, 1/3 del mio tempo a Londra e poi il resto lo passo in giro per il mondo. Quindi, diciamo, non è che dico l'Italia è tutto, però secondo me ci sono tutte le condizioni per fare impresa in Italia. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Le parole del fondatore e CEO di Yoox Net-a-Porter Federico Marchetti, da poco nominato imprenditore dell'anno e con un'esperienza pregressa negli Stati Uniti, introducono la puntata odierna della nostra trasmissione. Puntata che ci trasporta in Irlanda del Nord, destinazione assolutamente inedita per giovani talenti. Andiamo a trovare i nostri connazionali residenti nell'Ulster in una trasmissione che, oltre a raccontarvi storie di espatrio, farà ancora una volta il punto su quante opportunità siano presenti nella Gran Bretagna del dopo Brexit. A completare la nostra mezz'ora, un libro sui cosiddetti cervelli in viaggio che ci riporterà in una dimensione più accademica. Giovani talenti. La frase della settimana è copyright dell'ex premier Matteo Renzi. Per investire sul futuro e far cambiare direzione all'Europa, l'Italia ha bisogno anche delle sue università ed è tempo che i cervelli fuggiti all'estero tornino in patria. Basta parlare solo di fuga di cervelli, dice Renzi. Dobbiamo finalmente entrare nella dimensione che l'Italia deve attrarre cervelli. Se poi qualcuno se ne vuole andare, vada, se la giochi, ma quelli che pensano di voler fare ricerca nel proprio paese ritornino qui. Così Renzi, che sembra aver intuito negli ultimi mesi l'irrinunciabilità della attrazione o riattrazione di talenti. Tempi duri per gli universitari. Non solo l'Italia è fanalino di coda europeo per numero di giovani laureati, 25% contro il 30% dei tedeschi e il 45% dei francesi, ma è anche la nazione in cui si pagano più tasse accademiche, seguendo un trend di crescita insostenibile per molte famiglie. Inoltre siamo il paese europeo che rende più difficoltoso l'accesso alle borse di studio. Questa è la fotografia scattata dal rapporto Euridice 2016-2017, con cui la Commissione europea ha analizzato i sistemi accademici dei paesi membri. Rispetto a un anno fa, le tasse medie in Italia sono passate da 1.220 a 1.262 euro per anno di iscrizione. Dall'università alla ricerca, c'è chi viaggia fino in Irlanda del Nord per trovare le opportunità giuste. Una prima assoluta oggi a Giovani Talenti. La Gran Bretagna è un paese meritocratico, sempre a caccia di talenti, e i paesi che ragionano in questo modo avranno sempre posizioni di leadership. Domenico Crocco, 32 anni, è un ricercatore chimico, a lavoro nell'Ulster. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura agli ultimi dati Istat sull'emigrazione dall'Italia, che continua a crescere. 102.000 connazionali sono espatriati nel 2015, più 15% in un anno. Prima meta la Gran Bretagna, seguita a un'incollatura dalla Germania. Più staccate Svizzera e Francia. A colpire l'attenzione è il fatto che sono sempre di più laureati over 25 con la valigia, 23.000, più 13% in un anno. Laureati che puntano maggiormente sul Regno Unito, mentre i diplomati preferiscono la Germania. Prima destinazione oltreoceano gli Stati Uniti, e sono solamente 30.000 connazionali rientrati in un anno, il che porta a un saldo negativo tra espatri e rimpatri pari a ben 72.000 unità. In calo infine i trasferimenti di residenze interne al territorio nazionale. Le mete principali degli studenti universitari italiani che scelgono l'estero sono Stati Uniti e Inghilterra. A riportarlo il Sole 24 Ore Scuola, gli studenti tricolori iscritti nelle università americane sono aumentati dai 3.500 del 2008 ai 4.800 del 2015. Quelli che hanno scelto di studiare oltremanica sono addirittura raddoppiati dai 6.200 del 2010 ai 12.700 del 2015. Un boom a cui si associa una new entry, l'Olanda, che con la sua offerta accattivante, formazione pubblica con college sul modello americano, ha visto lievitare le iscrizioni fino a quasi 1.000 unità. L'Olanda presenta anche costi molto più abbordabili. Apriamo ora un'ampia pagina europea. 500 milioni per la Youth Employment Initiative nel 2017, questo grazie all'accordo definitivo sul bilancio comunitario. Aumentate in particolare le risorse a favore dei giovani, anche i fondi per il programma Erasmus Plus aumenteranno del 19% a 2,1 miliardi. Al via l'operazione Startup e Scale Up della Commissione Europea, che vuole aiutare a crescere le nuove imprese innovative nel continente perché diventino leader globali. Primo strumento, l'accesso al credito, col lancio del nuovo fondo paneuropeo di capitali di rischio da 400 milioni, che dovrà mobilitarne il triplo dai privati per un totale di 1,6 miliardi in un triennio. A ciò si accompagnano provvedimenti per semplificare la tassazione e rendere meno traumatico il fallimento. Permettere ai giovani europei tra i 18 e i 30 anni di inserirsi in un progetto di volontariato o tirocinio, un apprendistato o lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi in un altro paese comunitario. E con questo obiettivo che la Commissione europea ha varato il Corpo europeo di solidarietà, i giovani interessati possono già registrarsi sul sito europa.eu. Bruxelles ha infine raccolto in un pacchetto giovani una serie di misure e azioni, tra le novità l'istituzione di Erasmus Pro, una nuova attività specifica del programma Erasmus Plus che sosterrà i collocamenti di lunga durata degli apprendisti all'estero. Sono poco più di 6.000 giovani assunti a tempo indeterminato nel 2015 grazie all'incentivo previsto dal programma Garanzia Giovani, lo rivela l'INPS. Un po' pochi se contiamo che era stata offerta un'opportunità a circa 250.000 giovani e 600.000 erano stati quelli presi in carico. Diversi dati del Ministero del Lavoro che parla di 20.000 assunzioni. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta in un territorio finora inesplorato dalla nostra trasmissione, l'Irlanda del Nord. Ci sono opportunità anche a Belfast e dintorni, Brexit permettendo, ovviamente. Nome: Domenico. Cognome: Crocco. Età: 32. Città di origine: Pianecrati, Cosenza. Studi: laurea in CTF e dottorato in chimica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2014. Per andare dove? Anversa, Belgio. Perché? Ho trovato lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Senior Scientist. Dove? Belfast, UK. Tornerai? Mi piacerebbe. La stragrande maggioranza delle aziende farmaceutiche italiane non conosce il significato di PhD. Durante il colloquio bisogna spiegare cosa significhi un dottorato. All'estero invece ci sono posizioni specifiche per il dottore di ricerca. Molte aziende italiane non hanno neppure nei loro siti web la sezione reclutamento. Così, in genere, si invia una candidatura spontanea. Allora, Domenico, il quadro che hai tracciato dell'opportunità nel tuo settore in Italia, nella lettera che hai inviato a Giovani Talenti, è francamente desolante. Come siamo potuti cadere così in basso, ti chiedo? Durante il colloquio... Diciamo, le risorse umane hanno una concezione provinciale dal mio punto di vista, quindi si basa molto sulla raccomandazione. Invece bisogna istruire le risorse umane con una mentalità globale, cioè bisogna guardare i titoli, le esperienze internazionali e soprattutto da come si risponde alle domande, senza raccomandazioni. Non conoscenze, non raccomandazioni, ma guardare nel merito il curriculum, questo non ci stancheremo mai di ripeterlo, e mi pare capire che dalla tua esperienza non è stato così in Italia. Assolutamente no. Nasci in Calabria, dove studi chimica e tecnologie farmaceutiche. Perché riponi fiducia in questo corso di studi? Quali aspettative avevi per il futuro? Perché volevo conoscere l'intimità della materia e la sua interazione con i sistemi biologici. Volevo lavorare in accademia oppure in multinazionali, in ambito internazionale, assolutamente. Tu ti laurei con lode 7 anni fa, il tuo voto da 1 a 10 alla nostra università? Dal punto di vista nozionistico 9, dal punto di vista strumentale laboratoristico 4. L'Italia, diciamo, è troppo arretrata rispetto ai partner europei, assolutamente. E l'Italia ti dà comunque delle occasioni importanti, almeno in università, perché un anno dopo tieni la possibilità di svolgere un dottorato in chimica a Parma. Ti trasferisci così dalla Calabria all'Emilia. Sono anni importanti che ti forniscono la possibilità di trascorrere alcuni mesi in Sudafrica, entrando in contatto con realtà accademiche all'estero. Cosa ha comportato per te in termini di apertura di orizzonti personali e professionali? L'esperienza in Sudafrica è stata bellissima, ho passato 6 mesi fantastici. Ho capito realmente cosa volesse dire globalizzazione. Ho lavorato con scienziati indiani, americani, cinesi e questo mi ha permesso di capire, diciamo, di abbattere un po' la mentalità italica provinciale. Questo è importante, ma vale la pena svolgere un dottorato in Italia col senno di poi? Dal punto di vista nozionistico sì, per quanto riguarda le strumentazioni, i contatti internazionali no. Ci sono molti docenti italiani che ancora non conoscono la lingua inglese. E non va bene. Bisogna fare in modo che i docenti siano capiscano il mercato e possano lanciare in giovani anche in ambito internazionale. E il problema arriva alla fine, anni e anni di studio, sacrifici importanti alle spalle, fino alla prova della verità, il lavoro. E ancora prima di finire il dottorato tu cominci una spedizione sistematica di curricula a potenziali datori di lavoro. Ne invia centinaia ad aziende università italiane e il risultato, lo vogliamo dire? Zero colloqui sostenuti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Capito l'andazzo, inviai molti curricula all'estero. Allora, Domenico, dove ottieni la tua prima posizione di lavoro? Presso la divisione farmaceutica della Johnson & Johnson in Belgio, in Anversa, come scientist. Un passo indietro, tu denunci come anche nel settore industriale, farmaceutico e chimico in Italia si venga assunti sulla base di conoscenze e raccomandazioni. Ne hai avuto concretamente sentore? Sì, perché molti miei colleghi che lavorano adesso nel settore farmaceutico e chimico in Italia sono stati raccomandati da professori con cui hanno sostenuto la tesi o quella di dottorato. Ma raccomandati in senso positivo, per cui è bravo, te lo segnalo, raccomandati nel senso negativo e più italico del termine? No, a volte positivo, a volte negativo. Poi dipende dal professore, dipende da chi ti raccomanda, assolutamente. E poi c'è anche un altro problema culturale, persino più grave forse. Le nostre aziende nella media non sembrano distinguere sostanzialmente un perito chimico da un dottore di ricerca. Allora, ce la spieghi tu la differenza? Ma certamente, Sergio. Il perito chimico consegue esclusivamente un diploma di scuola superiore. Un dottore di ricerca deve conseguire la laurea quinquennale e poi un dottorato della durata di 3-4 anni. C'è una bella differenza. Sono diciamo 8-9 anni in più di studio. Un perito chimico conosce le basi della materia. Il dottore di ricerca ne è padrone. E questa è la differenza. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Domenico Crocco, 32enne ricercatore chimico al lavoro in Irlanda del Nord. Domenico si trova nei fatti costretto a emigrare dopo gli studi universitari e il dottorato in Italia. Costretto perché non trova uno straccio di occasione o d'opportunità nella penisola, né in università né in azienda, dove riscontra anzi una forte ignoranza e mancanza di sensibilità nei confronti della sua qualifica di PhD. Beh, che dire, un altro talento che ci siamo fatti scappare. Complimenti, riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. Se non vengono applicati metodi di reclutamento meritocratici, se non viene valorizzato il PhD, ci sarà un continuo flusso di giovani scienziati verso l'estero e questa sarà una sconfitta per il nostro paese. Chiosi con una forte denuncia, Domenico. Tu sei uno di loro. Come sono andati i 2 anni di lavoro ad Anversa? Quanto sono stati utili per te? Beh, sono stati anni importantissimi perché ho lavorato nella Johnson & Johnson, uno dei maggiori protagonisti mondiali nel settore farma. Ho avuto modo di lavorare con tantissime persone e quindi sul curriculum è pesato molto questo, assolutamente. E infatti, concluso il contratto in Belgio e senza aver avuto indizi di rinnovo, ti rimetti alla ricerca. Stavolta punti fin da subito a una dimensione mondiale, 650 curricula inviati, infiniti colloqui svolti e alla fine l'Irlanda del Nord. Per quale posizione e di cosa ti occupi adesso? Lavoro come senior scientist presso l'azienda Almac. Mi occupo di chimica dello stato solido. Cioè noi con il mio gruppo cerchiamo di ottimizzare le forme farmaceutiche solide, come ad esempio anche i principi attivi, per renderli ottimali dal punto di vista farmacologico. È un tuo gruppo, no, che coordini? Coordino 3-4 persone. Per quanto lontano da Londra, anche tu tecnicamente ti trovi in Gran Bretagna. Allora ti chiedo, ti preoccupa la Brexit e che aria si respira nell'Ulster? No, onestamente non mi preoccupo. Non mi preoccupa la Brexit, perché la Gran Bretagna è un paese meritocratico e sembra caccia di talenti e i paesi che ragionano in questo modo avranno sempre posizione di leadership. Un'ultima cosa, nella lettera che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it ti soffermi a lungo sulle differenze di sviluppo tra due regioni economicamente depresse che conosci bene, la tua Calabria e l'Ulster. Allora, ci sono lezioni che la Calabria può apprendere da Belfast su come tornare competitiva? Sicuramente sì, in Belfast, i finanziamenti vengono investiti in maniera eccellente, il dipartimento in cui opero è stato costruito con i fondi dell'Unione Europea. In Calabria i fondi non vengono spesi bene, le opere rimangono incompiute e molto spesso le persone che dovrebbero comprendere la documentazione relativa non conoscono l'inglese e i finanziamenti tornano indietro, quindi c'è anche un gap culturale. Assolutamente. Più chiaro di così. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. I dati Istat mi dicono che ci sono 4 milioni di poveri in Italia, una tragedia. Per ripartire bisogna che gli insegnanti di inglese siano madrelingua e bisogna che i giovani dovrebbero sostenere semestri in paesi anglofoni dove possano appunto conoscere la lingua inglese e avere un taglio internazionale. Bisogna mantenere il know-how italiano con un taglio internazionale per sopravvivere. Ci raggiunge ora in linea Chiara Casari, collega di Domenico e ricercatrice chimica, come lui, in Irlanda del Nord. Buon pomeriggio. Ciao a tutti. Chiara, rispetto a Domenico c'è una fondamentale differenza nella tua storia in Italia. Infatti tu hai lavorato, ti sei anche trovata bene per un buon periodo. A un certo punto non c'erano più opportunità di crescita, ero stanca della mentalità lavorativa qui in Italia. Sintetizzi così l'epilogo della tua esperienza nella penisola. Il nostro, allora ti chiedo, è un paese che obbliga a moderare le proprie ambizioni, soprattutto se si è giovani? In parte sì, e soprattutto quello che a me ha dato molto fastidio dopo certi anni lavorati in Italia è che l'atteggiamento sia da parte dei datori di lavoro: ringrazia che hai un lavoro, fai quello che ti viene richiesto, testa bassa e lavora. Insomma, non è proprio il massimo dell'incoraggiamento. Precisiamo anche che tu alle spalle non hai un PhD come Domenico, ma un master in tecnologie farmaceutiche. Quanto ti ritrovi però nelle sue considerazioni sulla sostanziale incapacità da parte del nostro sistema produttivo di fornire opportunità serie a giovani altamente qualificati? Quindi vogliamo dire che altamente qualificati per un'azienda italiana vuol dire stipendio più alto e quindi tutte le difficoltà che questo comporta dal punto di vista economico per un'azienda. È anche vero che è difficile trovare lavoratori anche meno specializzati, come diceva Domenico, ciascun lavoratore, indipendentemente dalla propria esperienza scolastica, deve raggiungere e ricoprire solo alcuni determinati ruoli all'interno dell'azienda. In un mese trovai lavoro in Irlanda del Nord, dopo aver inviato un po' di curricula in Europa, ricordi, tornando con la memoria al 2014, impensabile per l'Italia, rifletti. Che ambiente di lavoro hai trovato su al nord, Chiara? Assolutamente eccezionale, ci sono lavoratori dipendenti da tutte le parti del mondo, c'è un'apertura mentale estrema, si può parlare con tutti i dipendenti dal livello più basso fino al livello più manageriale più alto e anzi si viene invogliati a portare la propria esperienza e a partecipare nelle discussioni e nel miglioramento dell'azienda. Questo direi che è la più grande differenza con l'Italia. Insomma, mi sembri molto soddisfatta e ho un'ultima domanda per te. Quando sono arrivata, ci scrivi, ero l'unica italiana in un'azienda da 4.000 dipendenti, ora siamo in 3. Allora ti chiedo, qual è il tuo messaggio ai colleghi che nella penisola arrancano con impieghi magari sottoqualificati? Osare? Direi studiate l'inglese, direi che è l'unico fattore limitante all'estero per noi italiani e direi che serve anche un po' di coraggio per mollare gli ormeggi e imbarcarsi in una nuova avventura. Direi che questo è il consiglio che posso dare. Esattamente come hai fatto tu. Un grande in bocca al lupo, Chiara, e domanda di rito per Domenico Crocco: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Io dico, caro giovane, cerca di capire le tue predisposizioni, un po' di coraggio e parti. C'è sempre da imparare nel mondo. Nella gioventù ci sono tutte le energie e la forza per imporsi a livello internazionale. Può essere difficile, ma alla fine ci sono grandi soddisfazioni quando si raggiungono certi traguardi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi la dedichiamo ai postdoc, concentrandoci dunque sul mondo della ricerca che fa da sfondo anche a questa trasmissione e vi segnaliamo. Un postdoc associato nel settore delle neuroscienze all'Università Karl von Ossietzky di Oldenburg in Germania, scadenza per i CV 31 dicembre, info su uni-oldenburg.de. Un postdoc in elettronica e bioingegneria alla Bangor University, Gran Bretagna, scadenza per CV 20 dicembre, info su jobs.bangor.ac.uk. E infine un postdoc nel Dipartimento di Chimica Clinica, Microbiologia e Immunologia all'Università di Ghent in Belgio, scadenza per CV 23 dicembre, info su ughent.be. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi parliamo di un saggio che prova a raccontare il fenomeno dei cervelli in fuga con un'ottica più positiva e anche, se vogliamo, ottimista. Come ce lo spiega Maria Lodovica Gullino, autrice di Valigie, Cervelli in viaggio e vice rettrice dell'Università di Torino. Ho deciso di mettere un po' insieme storie che ho raccolto, perché molto spesso il tema dei cervelli in fuga viene trattato sempre con una visione soltanto negativa, quindi si considera il fatto di andarsene come un aspetto negativo, mentre invece io nel mio libro, raccontando storie di tante persone che sono andate, hanno fatto delle belle carriere all'estero in periodi diversi, ho cercato anche di dare una visione positiva di questo fenomeno. Ecco, lei vede l'Italia come un paese che sta cominciando a entrare in un'ottica di circolazione dei talenti, dei cervelli, o ancora predominante la fuga? Ecco, questo è l'aspetto critico, perché non è che io voglia vedere solo la parte positiva. La parte negativa qual è? È che noi nel nostro paese non siamo capaci di attrarre persone. Non siamo capaci di attrarre persone perché cerchiamo di attrarle con dei meccanismi molto complicati, perché noi paghiamo troppo poco i ricercatori, perché non offriamo quelle condizioni che in genere attirano un ricercatore. Io penso al mio settore, che è quello della ricerca, che ha bisogno di laboratori, bei laboratori, tecnici capaci di aiutarli, giovani dottorandi. Nel mio libro però non parlo solo di ricercatori, parlo di gente che va e che viene, che va anche nel settore dell'industria, che è andata, che si è spostata in altri settori, che è arrivata e fa, per esempio, lavora nel mondo del design, stilisti, eccetera. Quindi il problema c'è da parte nostra. L'Italia fa degli sforzi, ma li fa con i suoi meccanismi estremamente burocratici. Quindi il problema sta nel fatto che su 6 persone che vanno ne arriva una. In autunno hanno fatto discutere le dichiarazioni del presidente dell'ANAC Cantone sui concorsi che favorirebbero di fatto la fuga dei cervelli, concorsi in accademia. Quanto c'è di vero, secondo lei, in questo? Certamente alcuni dei cervelli che sono fuggiti lo possono aver fatto anche in conseguenza di mancanza di posti oppure di concorsi che hanno privilegiato altre persone. Però la cosa è molto più complessa, perché in realtà io devo dire molto modestamente, non concordo con Cantone quando dice che la riforma Gelmini è stata negativa. La riforma Gelmini, che certamente non sarà perfetta, nulla è perfetto, tutto può essere migliorato, ha finalmente permesso di fare dei concorsi in modo più corretto. Il problema siamo noi italiani, perché il modo in cui noi interpretiamo i concorsi è un modo molto particolare. Per maggiori informazioni, Valigie, Cervelli in viaggio di Maria Lodovica Gullino, Daniela Piazza, editore. Un motivo per restare o tornare. Sono un piccolo esercito quei 175.000 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non si arrendono e, dopo aver studiato, sfidano la crisi aprendo una loro impresa. Questi anti-net si chiamano EET, Employed, Educated and Trained, e grazie all'autoimprenditorialità avviano attività in diversi settori, da quelli più tecnologici a quelli più tradizionali. Attualmente i giovani di questa età che lavorano sono oltre 2 milioni e mezzo e valgono 46 miliardi di euro, il 2,8% del PIL. Ad accendere i riflettori su di loro è uno studio elaborato da Censis e Conf Cooperative, secondo il quale gli EET sono localizzati per circa il 40% al nord, il 20% al centro e un altro 40% al sud. Per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internectivo, nell'ultimo sabato del mese, leggiamo le vostre lettere in onda, aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e anche, perché no, denunce. Per mettervi in contatto con noi è semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, se siete under 40 ed espatriati, candidatevi, aspettiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.